effetto, parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare, di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Eccoci, ancora qua nel 2019, prima puntata di questo nuovo anno, siete su Radio Wombat, state ascoltando La Stampa Rassegnata e vi ricordiamo che anche per quest'anno le modalità con cui ci potete ascoltare e trovare sono ancora le stesse dell'anno precedente, quindi in streaming o addirittura in onde medie di frequenza all'1359 oppure in replica il mercoledì alle 23.59 per non dire mezzanotte o il giovedì mattina alle 8.30, mentre la diretta è quella del lunedì alle 15.30. In qualunque modo ci stiate ascoltando, forse anche attraverso il podcast, che è la forma più comoda per certi aspetti, quindi vi permette di scaricarci, di ascoltarci quando volete e dove e nelle modalità che più vi piacciono. Un grande saluto a tutti voi e lasciandovi in questa puntata di questa settimana con la quale stiamo andando a Signa. Oggi dedichiamo questo spazio di questa settimana della Stampa Rassegnata a una vicenda molto interessante che abbiamo in qualche modo già affrontato e guardato in alcune precedenti puntate, che è la lotta degli abitanti di Signa per la questione della viabilità, della mobilità cittadina all'interno della piana e soprattutto del ponte. Una questione che gli abitanti stessi sono stati capaci di portare alla ribalta e in qualche modo a far uscire dal silenzio che in questi anni purtroppo aveva avvolto le difficoltà degli abitanti legate soprattutto alla salute, e lo facciamo dando la parola ad una delle protagoniste indiscusse di questa esperienza che si è andata e si va sviluppando in questi giorni, in questo mese, in queste settimane proprio a Signa. Siamo al telefono con Manuela, che salutiamo caldamente dai nostri microfoni e alla quale chiaramente rivolgiamo una domanda abbastanza generica affinché si senta il più possibile libera di parlare, che è: ma Manuela, ma cosa sta succedendo a Signa in questo momento e perché soprattutto? Ciao Andrea, grazie, e ciao a tutti, grazie per lo spazio e per l'ascolto. Allora, Signa è cominciata quella che viene chiamata la protesta dei lenzuoli. In realtà si parte da un problema molto annoso, un unico ponte che attraversa l'Arno, su cui transitano quotidianamente circa 24.000 veicoli. E chiaramente i picchi di polveri sottili di inquinamento registrati nella zona dall'unica centralina sono altissimi, senza soluzione di continuità, perché non ci sono all'orizzonte soluzioni certe per questo problema. Ora, i cittadini signesi e di Lastrasigna aspettano questo ponte promesso da 50 anni. Io personalmente vivo a Signa da 32 e ne ho sempre sentito parlare come qualcosa che doveva essere fatto, un ponte, una soluzione alla viabilità per alleggerire questa zona così congestionata dal traffico, dall'inquinamento, quindi una minaccia come si sa molto grave per la salute, perché queste polveri sottili sono la causa di numerose patologie, non solo quelle polmonari, ma anche tutta una serie di altre problematiche che si innestano, diciamo, da questa robaccia che respiriamo quotidianamente. E poi appunto c'è da dire che progetti ne abbiamo visti tantissimi, promesse ne sono state fatte, soprattutto al momento delle elezioni c'è sempre chi prospetta questo ponte come qualcosa che sta arrivando da un momento all'altro. Il problema è anche che la gente è molto rassegnata, disillusa, anche arrabbiata, però un'arrabbiatura che spesso non, cioè quello che abbiamo notato, noi abbiamo istituito questo comitato, è che c'era quasi insofferenza verso chi sollevava questo problema, perché il pensiero comune è tanto ormai non fanno più niente. E invece d'altra parte a volte bisogna anche fare un'autocritica, perché siamo anche noi cittadini a volte che con la passività e l'accettazione rassegnata, anche arrabbiata, però passiva, in qualche modo legittimiamo certe ingiustizie, certi comportamenti. Noi come comitato ci siamo costituiti circa un anno fa, dopo un consiglio comunale in cui si parlava di un progetto che era già in atto da alcuni anni, il progetto quello Ponte del Giglio, che sostituiva il fallimento del precedente progetto Bretella. Anzi, ora faccio un passo indietro, scusate la confusione, per parlare di quello che nel 2006 doveva essere un progetto quasi faraonico, diciamo, perché era una specie d'autostrada a 6 corsie che era stata progettata con un project financing in cui concorrevano delle società private che mettevano la maggior parte dei fondi necessari e avrebbero recuperato questi soldi con un pedaggio. E qui la regione doveva dare una parte di soldi e infatti anticipò nel 2006 circa 30 milioni di euro, insomma, per due paesi così sono un'enormità, no? E questi 30 milioni di euro in realtà questi soldi furono spesi per pagare altre cose di queste tre società partecipate che avevano avuto questo appalto. In realtà non fu messo neanche un mattone per questo benedetto ponte e nel 2011 fu data la disdetta da parte della regione a queste società, e però anche la regione avrebbe dovuto pagare delle penali. Poi fu fatto un processo che andò a finire in prescrizione nel 2012, perché ormai erano già decorsi i termini, e quindi i veri sconfitti siamo stati ancora una volta noi cittadini, perché sono stati spesi questi soldi, fondi pubblici, e noi non abbiamo avuto assolutamente niente. Quindi nel 2013 si cominciò a parlare di un nuovo progetto, anzi prima di tutto fu detto appunto da Rossi che avrebbero stanziato 15 milioni annui per 5 anni in modo da avere per il 2018 dei soldi per pagare un altro ponte. In realtà di questi stanziamenti non si è visto niente. Questo progetto è andato avanti, appunto questo progetto che poi è stato denominato Ponte del Giglio, che era molto più snello, anche se sempre costoso, 70 milioni, però niente a che vedere con un progetto faraonico come era prima. E niente, questo progetto stava arrivando al dibattito pubblico, che noi da un anno sollecitavamo, perché siamo stati più volte in regione, abbiamo parlato con diciamo l'ufficio tecnico che ci hanno anche spiegato un po' che questo progetto secondo loro era il migliore e che era studiato, diciamo, in maniera da avere un minore impatto, anche con i filoni sistemati in un materiale particolare, insomma cose tecniche che noi, diciamo, non conosciamo bene e ci siamo fidati. È sempre difficile, appunto. Certo. Ci dicevano appunto che quello, noi chiedevamo ma fare una cosa magari più economica, che non richieda interventi statali, no? Ma possa essere gestita dalla regione, quindi sotto 50 milioni, ci fu detto di no, perché quello era un progetto, insomma un gioiellino della tecnologia, e quindi abbiamo seguito, diciamo, con partecipazione, perché ci speravamo, se non che appunto questo dibattito pubblico tardava a iniziare fino a quando poi è stato annunciato che sarebbe, che diciamo questa pretella era in conflitto con un'opera compensativa dell'aeroporto che doveva essere fatta proprio a Signa, proprio nella zona in cui avrebbe dovuto passare questo ponte o pretella, come vogliamo denominarla. Quindi lì diciamo si è scatenato un po' una rabbia, diciamo una reazione, e quindi è nata questa idea di esporre il lenzuolo alla finestra, perché cioè in realtà cosa può fare un cittadino? Noi chiaramente siamo per una protesta pacifica ma ferma, e quindi questa idea di esporre un lenzuolo bianco, no, che però allo smog diventa nero, perché In effetti c'è una serie di case proprio su Sfigna che ha tutte le pareti nere, ma non perché sono state lasciate sporche, in stato di abbandono, ma perché quando vengono verniciate, massimo 2 anni, ce le ritroviamo nere allo stesso modo. E questo insomma è l'apparenza, ma la realtà è che i nostri polmoni subiscono questo trattamento. Ci sono famiglie che hanno cresciuto dei figli in quelle case, insomma, e hanno aspettato pazientemente, affidandosi, diciamo, a chi dell'amministrazione, della regione, a chi aveva i poteri e i doveri anche di trovare una soluzione. Però adesso, ecco, ci siamo sentiti un po' presi in giro, anzi parecchio, e la sensazione è che vengano fatte delle opere che in realtà ai cittadini non interessano, perché noi non sentiamo né il bisogno, diciamo, di questo laghetto, che in realtà, visto che contiene solo 80 centimetri di acqua, non sarebbe poi quella cosa ecologica che ci vogliono far credere, ma sarebbe solo un acquitrino. Poi appunto c'è questo muro di 5-6 metri, noi siamo stati anche questa settimana alla presentazione a San Mauro e sinceramente siamo rimasti un po' adibiti. L'altra cosa che in questi giorni ci ha molto infastidito è il fatto che si presenti ora, no, una soluzione per trovare un altro tragitto. Ma come? Ci è stato detto che questo progetto era già stato avanzato con tutti gli studi di fattibilità già fatti e ora si riparte da zero? E questo non è certo in funzione del benessere e dell'interesse della, dei cittadini. Questo qui c'è dietro qualcosa, interessi che non sono i nostri. E infatti su uno dei lenzuoli apparsa la scritta Penelope Regione fa progetti e poi rivista, perché parliamone, decine di esperti che lavorano a un progetto per diversi anni vogliono dire anche soldi pubblici spesi ancora su questo progetto per niente. E come no? Sì, sì, scusa, ti ho interrotto dicendo e come no, nel senso che volevo approvare ovviamente quello che stai dicendo, che gli studi di fattibilità, anche se poi non portano a niente, impiegano però risorse, ovviamente le risorse pubbliche, e quindi certo è quello che stavi dicendo. Sì, tra l'altro una di noi ha anche partecipato, perché effettivamente insomma c'è stato anche accoglienza da parte dell'ufficio tecnico, l'hanno invitata a partecipare, è andata a vedere, c'erano appunto anche degli esperti delle commissioni dell'università, cioè c'era del lavoro che anche se adesso viene buttata là, perché io penso proprio buttata là perché non c'è niente di sicuro, un'altra ipotesi di tragitto da individuare, già questa parola, no, da individuare vuol dire che di sicuro non c'è niente, non si sa di dove può passare questa strada e che comunque dovrà avere da capo tutti gli studi di fattibilità rifatti, perché non è che si fa un progetto così dalla mattina alla sera. Ora, noi abbiamo cercato di interessare anche tutti gli organi di stampa possibili per catalizzare l'attenzione su quello che sta succedendo, perché è una delle cose su cui noi possiamo agire, cercare di richiamare l'attenzione anche dei media. E quindi è stato fatto proprio ieri anche il servizio di Striscia la Notizia e diciamo che ne è andato di mezzo un tecnico della regione, l'ingegnere che aveva dato il primo progetto, che è stato preso, diciamo, di sorpresa mentre facevano un sopralluogo in delle zone per individuare un altro percorso. Però appunto quando lui parlava di 3-4 anni per iniziare i lavori, sì, in realtà parlava di un progetto che ancora non esiste. Lui poi ci ha detto sì, ma questa cosa potrebbe essere un'opportunità per fare un progetto meno oneroso, più agevole, che non richiede il dibattito pubblico. Però è chiaro che a noi è sembrato un po' un arrampicarsi sugli specchi, perché ovviamente con che coraggio si può dire a delle persone viene annullato questo progetto perché serve di più c'è più interessi a fare il laghetto per l'aeroporto e voi potete aspettare di nuovo ripartendo da zero e invece dire sì, si trova una soluzione più agevole, però noi questa volta non ci fermeremo, vogliamo delle garanzie, vogliamo che sia rispettati gli impegni presi e che sia fatto qualcosa per la nostra salute, per la nostra tutela da subito. E quindi andiamo avanti, stiamo scrivendo, vogliamo scrivere anche, anche se sì, questa cosa delle lettere forse può sembrare una cosa che non venga presa in considerazione, però comunque noi la facciamo perché non vogliamo lasciare niente di intentato. Abbiamo scritto a Rossi per esprimere il nostro malcontento, scriveremo anche a Toninelli, stiamo preparando una specie di dossier facendo vedere le nostre ragioni anche perché secondo voi questo lago a Signa ci sembra una cosa assurda, che intanto l'allungamento della nuova pista porterebbe solo altre emissioni tossiche nell'area che è anche la nostra, e poi comunque questo laghetto bloccherebbe un'opera per noi di vitale importanza proprio per il benessere. Parliamo anche comunque dei comuni limitrofi, perché le ore spese in coda sia non solo dai cittadini di Signa e da Stassigna, ma anche di chi a Tascandici magari si reca all'indicatore, chi da Campi va a Empoli, insomma c'è tutto un traffico di pendolari che tutti i giorni invece di starsene quelle due ore a casa a riposarsi passano quelle due ore in coda per fare un tragitto magari di 15 km. Poi alla Strassigna c'è anche il problema della FIDV che un giorno sì, un giorno no, è bloccata per incidenti, ritardi, problemi, e quindi le macchine si trovano a uscire lì. Quindi sono tutte zone che non hanno nemmeno, specialmente lì alla Lassa, non c'è nemmeno una cittadina che misura nello specifico, perché se venisse messa anche una stazione mobile di rilevamento nelle zone nevralgiche tipo via Ricorrese alla Sassigna o via Roma a Signa, farebbe paura. Che, sì, si raggiungerebbero dei picchi che imporrebbero la chiusura della strada. E allora forse è proprio di quello che non si vuole prendere atto, perché poi non si saprebbe invece prendere, no? Per giustificare che non si fa niente. No, certo, infatti, Manuela, non per interromperti, ma per rilanciarti nuovamente la palla. Mentre stiamo parlando di queste cose, ricordiamo per chi non se ne fosse accorto, anche se credo sia impossibile, che proprio recentemente sono stati chiesti dall'ARPAT Toscana i blocchi del traffico e di alcune attività cosiddette maggiormente inquinanti proprio per gli sforamenti sulle polveri sottili, le PM10, e tenendo in considerazione il fatto che l'ARPAT ha pochissime centraline, come denunciamo da anni, denuncia e preoccupazione che sta anche alla base della nascita di un progetto interessante di cui abbiamo già parlato, che è quello di Che Aria Tira, cioè la rete di monitoraggio dal basso della qualità dell'aria, che prende in considerazione non solo il PM10, cioè le polveri sottili diciamo di grandezza 10, se l'unità di misura non stiamo qui a entrare troppo nel tecnico, ma anche il 2,5, che invece l'ARPAT non misura nemmeno. E quindi mentre stiamo parlando appunto di questi problemi, siamo proprio in una situazione in cui la criticità della qualità dell'aria è assolutamente agli occhi di tutti, o forse direi ai polmoni di tutti. E ti volevo diciamo così, per approfondire, per allargare la cosa, i nostri ascoltatori e ascoltatrici credo sappiano già, proprio perché ne abbiamo già parlato, che il conflitto tra diciamo la mobilità nella piana per quanto riguarda questo tratto e questa bretella di cui stiamo parlando con te e l'aeroporto nasce dal fatto che Essigna e diciamo il lago dei Renai è individuato come il luogo in cui si dovrebbe compensare, usando questa terrificante parola che ormai va di pari passo con le infrastrutture e le grandi opere, dovrebbe compensare la cancellazione di alcune oasi faunistiche e di aree umide importanti che si trovano nella piana fiorentina tra diciamo Firenze Ovest, lo Smannoro e Sesto, che è uno di questi, è il lago di Peretola, che per l'appunto sarebbe compensato a Signa. E volevo chiederti, questa, diciamo, la protesta che in qualche modo è nata, ma che cova da sempre, si incrocia anche con le future elezioni, giusto? Andando in qualche modo a. Si va alle elezioni e il sindaco del Partito Democratico, Cristianini, insomma, ha assunto che posizione rispetto alle vostre rimostranze, alle vostre proteste e anche rispetto a quello che succederà o alcuni poteri forti del territorio vorrebbero che succedesse a Signa, cioè rispetto all'aeroporto. Che fa questo Diciamo lì era sindaco? una cosa molto contorta da quello che abbiamo potuto vedere, perché noi del comitato abbiamo anche assistito ai due consigli comunali, appunto partendo da un no all'aeroporto che avevano assunto alcuni sindaci della Piana, tra cui anche il nostro sindaco, abbiamo visto dare un sì condizionato a una promessa di una strada. E la cosa, ecco, che a noi proprio sembra strana e che non ci piace è questo, che si cerchi di scambiare un'opera che è un atto dovuto in cambio di un assenso a una costruzione di un laghetto che in realtà non è proprio una cosa utile e confligge con quell'opera che doveva invece essere fatta per la popolazione. Quindi questo porlo come moneta di scambio non ci è piaciuto per niente, perché il ponte è una cosa che deve essere fatta a prescindere, non se noi siamo bravi e diciamo sì alla costruzione del laghetto, allora ci danno la strada, perché questo è un modo veramente di sottovalutare e di svalutare, ecco, quello che sono i diritti dei cittadini, perché noi non dobbiamo fare i bravi e approvare cose che non ci piacciono per avere in cambio il ponte. Che ti Noi spetterebbe comunque. crediamo. Sì, abbiamo visto che infatti è stato dato questo sì condizionato, anche se poi ora purtroppo noi di cose tecniche non siamo tanto esperti, però leggendo la delibera regionale sembra proprio che sia scritto, no? Dato che il comune di Signa ha dato l'approvazione, dato che i sindaci hanno chiesto di vagliare altre ipotesi di tragitto, cioè quasi viene presentato nella delibera regionale quasi come se fosse un'agevolazione per autorizzare, diciamo, il laghetto, la nuova pista dell'aeroporto al master plan del 29 gennaio, insomma questo appuntamento, la conferenza dei servizi, ora scusatemi se sbaglio la No, no, terminologia, ma no, no, è proprio è quella. diciamo una cosa per me molto difficile e confusa, però quello che purtroppo appare abbastanza chiaro è che passa in secondo piano l'esigenza dei cittadini, perché diciamo, le forze politiche hanno approvato questa cosa, seppur con riserva, però in realtà in 15 giorni che garanzie si pensa di avere di una nuova strada? Non ci saranno mai. E praticamente hanno approvato con riserva, però di fatto, cioè questa cosa è una cosa che intanto dice sì e poi si starà a vedere se ci danno qualcosa. Invece secondo noi doveva essere respinta, perché comunque il territorio non si svende così in cambio di promesse, il territorio va tutelato per i cittadini e prioritaria è la costruzione di un ponte per una nuova viabilità, per una miglior vivibilità del territorio, anche per una maggior tutela della salute delle persone. Quindi, insomma, quello che noi poi vogliamo fare, che faremo, è anche un presidio sul ponte il 24 di gennaio dalle 16 alle 19, e appunto questo lo faremo anche insieme agli altri comitati che, come appunto in aeroporto, ci teniamo a precisare che noi non abbiamo nessuna matrice politica e quindi non accettiamo strumentalizzazioni di partiti o di forze politiche, insomma. Per noi il discorso è: ci sono adesso delle persone che ci amministrano, sono state elette, ecco, noi dobbiamo avere da loro quello che ci spetta, perché sono pagati e sono stati scelti per fare il lavoro, per tutelare i cittadini. Quindi noi chiediamo e facciamo le nostre azioni proprio rivolgendoci a questi interlocutori, indipendentemente da chi dice che c'è un gran dire alle elezioni, votate questi alle elezioni, cioè questo discorso non ci interessa, queste campagne politiche, ecco, le possono fare altri, non noi. Noi vogliamo che siano rispettati i diritti dei cittadini e penso che questo della salute, della tutela dell'aria che si respira sia una delle problematiche maggiori, perché poi con tutto questo traffico si svuotano anche le città, no? Diventano in qualche modo più brutte, più morte, meno vivibili. Certamente. E senti, e quello che interessa a noi appunto è proprio risolvere questo problema, ottenere insomma quello che da secoli da un po' viene promesso, da secoli no, ma da decenni sicuramente. Seguendo le nostre cognizioni, nessuno ancora sa dire come sarà, cosa farà nella realtà. Il ragazzo del 2000, questo perché nessuno lo sa. L'ipotesi è suggestiva ed anche urgente. Ma seguendo questa prospettiva, oggi ne sappiamo poco o niente. Del ragazzo finisci o da aspettare dentro a quel vento del 2000, non lo sappiamo ancora immaginare. Ed eccoci rientrati in voce. Per chi si fosse collegato adesso, questa è Radio Wombat, più precisamente la trasmissione La Stampa Rassegnata, che va in onda in diretta il lunedì alle 15.30, oppure in replica il mercoledì alle 23.59 o il giovedì mattina alle 8.30. Stiamo parlando, chiacchierando, discorrendo con Manuela del Comitato di Signa, che ci spiega, ci racconta qual è la situazione che si vive a Signa rispetto all'inquinamento, al bisogno, alle necessità di salute contro una mobilità che sta asfissiando la piana, che rischia di diventare ulteriormente tragica con il progetto di nuovo aeroporto di Firenze. E senti Manuela, ma ti volevo chiedere, ma il, diciamo, questo flusso veramente impressionante, perché conteggiandone 24-25.000 al giorno è veramente, insomma, impressionante nei numeri, questo flusso di automobilistico che attraversa Signa proprio nel centro, e quindi con un percorso anche che per chi lo volesse guardare, insomma, da Google potrebbe per esempio vedere quante curve, quindi quante soste, quindi quanto tempo rubato, quanto carburante in più e quindi quante emissioni inquinanti in più ci sono, e quindi per comprendere le ragioni della protesta e della vostra lotta e delle vostre richieste. Ma quali sono gli attrattori di traffico e che tipo di traffico è? Sono pendolari che si spostano per lavoro? C'è pendolari nel 2013, appunto, dai comuni era stata fatta proprio una statistica su ponti, avevano un po' monitorato e analizzato. Sì, c'è molto, sono molti pendolari, la maggioranza non è traffico locale, proprio traffico che viene da fuori, e quindi c'è anche da dire che purtroppo questi due paesi non sono nemmeno serviti benissimo dal punto di vista dei mezzi pubblici. Ecco, perché proprio questo volevo. Pur avendo entrambi una stazione che appunto magari a Signa in certi orari è anche molto efficace, perché per i ragazzi, per andare a scuola, però per il centro di Firenze, diciamo, ecco, per tutte le altre zone è un problema, perché collegamenti tra i paesi della piana, io per esempio mi trovo spesso ad andare a Campi o a Scandicci, e su mezzi pubblici ci si fa poco conto se ci sono degli orari da rispettare, primo perché ce ne poni, secondo perché comunque anche lì il traffico per strada, sai a che ora parte un auto, ma non si sa mai a che ora arriva, quindi insomma anche gli orari non vengono rispettati, quindi è una cosa assolutamente aleatoria, sì, quindi anche collegamenti soprattutto con Campi siamo messi malissimo, quindi è inevitabile insomma che questo traffico c'è a tutte le ore, a volte se poi c'è qualche incidente allora buonanotte, eccoci proprio, cominciano sì, le sì, code sì. Sì, sì, sì, no, no, certo. Sì, o come su Firenze, basta che ci sia, non lo so, prendiamo zone che magari apparentemente sono meno metropolitane, ma se c'è un incidente in Piazza delle Cure sono fermi lungo via Faentina, insomma, perché la situazione del traffico dell'area metropolitana fiorentina, per come è configurata e per come è fatta, è questa, ecco, no? Però mi fa piacere, insomma, che c'è all'interno della vostra, del comitato, anche una riflessione sul rapporto tra mobilità privata fatta di mezzi privati e trasporto pubblico, perché necessariamente è anche quello verso il quale dovremmo tendere nel tentativo di creare una situazione. Tra le tante cose appunto si dice, no, che i cittadini e le persone sono pigre, voglio certo. Andare la macchina per spostarmi. Quando gli fa comodo. Però di fatto, se uno ha dei figli e deve portare a far sport, cioè la macchina diventa indispensabile, perché poi non ci sono mezzi, non c'è autobus, non c'è, alla fine diventa l'unica maniera per certo. Muoversi. Certo, sì, sì, e quindi si ripropone questa riflessione ad ampio raggio sulla mobilità, che non esclude neanche le cosiddette forme avanzate della mobilità pubblica, perché laddove hanno proposto, diciamo in via tra virgolette sperimentale, la tranvia, però anche per ragioni di costo, per esempio, è una sperimentazione che non sta dando nessun frutto da un punto di vista del incentivare il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato, non solo la rigidità dei suoi percorsi, ma anche il costo, perché in alcune sperimentazioni in Europa sono partite con la gratuità del mezzo pubblico, allora forse no? Mi fa riflettere sul fatto che da Siti andare in centro a Firenze costa 2,60 euro. Andare. Poi si deve aggiungere il costo dell'autobus se uno va fuori dal centro, quindi insomma per un pendolare che deve magari andare e tornare sono insomma delle cifre. C'è anche questo, direi. E senti Emanuela, ma una cosa che, diciamo, una curiosità però importante per noi che in qualche modo indaghiamo e guardiamo alle proteste, alle lotte come qualcosa che rigenera e cambia in meglio le nostre società. Voi avete messo al centro delle vostre battaglie la questione della salute. I giovani come rispondono rispetto a queste sollecitazioni? Cioè, trovi che ci sia che il vostro discorso, il discorso del comitato, riesce a penetrare anche a chi è sotto, diciamo, i 30 anni, mettiamo che i giovani siano questi, oppure è limitato e relativo a chi, diciamo, agli adulti o addirittura agli anziani? Perché insomma, quello della partecipazione giovanile. Tantissimi, forse perché diciamo Assigna e la Strafigna è un nervo scoperto più per chi da tanti anni insomma ha sentito fare promesse, ha sperato, no? ora lo fanno, ora si comincia, perché più volte, no? È stato detto, quindi forse i più suscettibili sono quelli magari che hanno più anni, magari il ragazzo di 20 anni che in questa cosa c'è nato e ormai è abituato così, forse ha meno sensibilità, non so, ecco, diciamo che ci pare che il problema sia un po' più sentito dalle persone un po' più adulte. Ma è uno spaccato che ricorre nelle lotte in difesa dei territori, nelle resistenze urbane, un po' così, direi un po' dappertutto, tranne forse qualche rara importantissima eccezione laddove le lotte raggiungono un livello di mobilitazione più alto e magari riescono ad essere attrattive anche per chi è più giovane e diciamo ha altre priorità, tra virgolette, però insomma è importante. E senti Manuela, ma noi cerchiamo di Ah, certamente, parlare, certo. E poi insomma faremo anche un incontro pubblico a fine gennaio, insomma dopo questo presidio sul ponte vediamo, speriamo insomma che diventi diciamo una cosa, una mobilitazione consapevole, pacifica e costante, nel senso che si va avanti finché non si ottiene diciamo garanzie di qualcosa di concreto e che sia veramente a tutela della salute. Certo, e senti Manuela, ma i lenzuoli, no? Una curiosità, ma anche una cosa sempre importante. Come è nata questa la vicenda dei lenzuoli? Ce n'è stato un primo? È piaciuta? Qualcuno l'ha rifatto? Oppure voi come comitato li avete fatti per tutti? Abitante, appunto, che sta proprio in via Roma, uno del nostro gruppo, ha detto: ma perché non si mette dei lenzuoli alla finestra? Io li metto. E poi una accanto a lui anche li ha messi, poi altre persone, perché quel tratto di strada è effettivamente quello appunto dove ci sono le famose, quelle che noi chiamiamo casse nere, perché hanno veramente i muri anneriti, tant'è che chi non è del luogo e passa pensa che sia dovuto quasi a incuria del proprietario. Sì. E quindi con delle scritte, e piano piano appunto da quel tratto di strada poi è nato lo slogan, no, che poi si è diffuso nel web, adotta un lenzuolo, e praticamente alla fine persone ci hanno offerto dei lenzuoli alla causa e noi, diciamo, ci siamo messi lì a verniciarli, chi vi usciva, e alla fine appunto è nata questa specie di rete di distribuzione di lenzuoli, e le persone appunto ci contattano, ma ne vorrei un anch'io, ma poi chi li mette spontaneamente, insomma è stato un po' un passaparola che ha dato un po' modo, no, alle persone di poter esprimere, di poter acquisire visibilità, perché quello che succedeva era proprio questo, cioè sentirsi invisibili, sentirsi inascoltati, sentire che le proprie esigenze, i propri diritti legittimi, no, a vivere in un territorio vivibile e un po' più sano, venivano continuamente negati oppure sempre relegati al ruolo di promessa. No, no, vedrai che il prossimo anno, no, no, vedrai, ora manca poco. Ora... Quindi, ecco, questo fatto di poter esporre il lenzuolo e scrivere le proprie richieste, scrivere anche le proprie lamentele, anche se insomma la nostra si spera che diventi una cosa costruttiva, perché a noi non ci interessa lamentarsi e basta, a noi interessa ottenere qualcosa di buono, che poi appunto sarà buono per tutti, perché se si riesce ad avere una viabilità migliore, nessuno, ecco, si potrà lamentare, tutti avranno da guadagnarci, no? Quindi ecco, la protesta dei lenzuoli è stata questa, poi appunto avendo acquisito magari un po' di visibilità, perché tanta gente passava di lì, magari chi abita a Campio, a Empoli, delle persone che conoscono, mi dicevano: ma cosa succede a Signa? Ma ho visto, sì. Magari prima nessuno si accorgeva, no? Invece da qui, ecco, è nata, diciamo, anche una certa curiosità, una certa attenzione. Certo. In queste situazioni serve sempre. Sì, anche perché probabilmente, come avevi detto all'inizio, uno dei primi nemici da sconfiggere sempre è l'idea che non si possa cambiare, che ormai è così, che la passività, no? L'idea che insomma la sconfitta ci pervade, e invece vedi, quando si parte un lenzuolo, due lenzuoli, tre lenzuoli, cinque lenzuoli, e comunque è sempre meglio che lamentarsi su Facebook o sì, diciamo al circolino, no? Quindi è il valore delle lotte. Siamo stati anche un po' tacciati di smania e di protagonismo, no? Però in realtà, ecco, sono dei lenzuoli, è scritto cittadini protagonisti per dire no a promesse di aria fritta, cioè diventare anche artefici, no? Di richieste di quello che vogliamo, diventare promotori di qualcosa che poi vogliamo controllare, che si concretizzi, perché non rimangano parole al vento che poi vanno a alimentare appunto questo senso di sconfitta, di rabbia, di frustrazione, che invece va incanalato, secondo noi, in qualcosa di positivo e di costruttivo. Bene, Manuela, tra cittadini per fare qualcosa di buono è una cosa positiva, perché permette, no, di incrociare le energie, di rafforzarsi tra noi, di confrontarsi, di fare un percorso che poi può prendere insomma anche altri aspetti propositivi e costruttivi. Benissimo, Manuela. Senti, io a questo punto, diciamo in chiusura, perché credo che ne abbiamo parlato sufficientemente di quello che sta succedendo, ti chiederei, per chi ci ascolta, di rilanciare ancora una volta l'appuntamento del presidio, che servirà appunto a far impazzire la maionese di Rossi, di Cristianini, dei poteri forti del territorio, che appunto vorrebbero scaricare a Signa le compensazioni per il nuovo grande fantasmagorico aeroporto di Firenze, piuttosto che assecondare le richieste legittime degli abitanti per quanto riguarda la propria mobilità. Quindi, quando è che ci vediamo? Allora, noi saremo sul ponte di Signa il 24 di gennaio dalle 16 alle 19. Che è un giovedì? No. Un giovedì, giovedì 24 gennaio dalle 16 alle 19 il concentramento, il ritrovo, insomma, per poi andare sul ponte. Noi promulgheremo anche dalla nostra pagina su Facebook, Nuovo Ponte per la Piana, tutti i dettagli anche di appunto come si svolgerà, le regole, diciamo, che internamente ci diamo, appunto, quindi in qualche modo sarà una protesta pacifica, ma saremo lì per farci vedere, farci sentire e portare, diciamo, avanti la nostra voce. Bene, e noi chiaramente ci saremo fisicamente, se non fisicamente, insomma, con i nostri microfoni pronti a dare nuovo spazio a quello che sono le voci del nostro territorio in difesa della salute, dell'ambiente e, insomma, delle nostre comunità. Quindi un grande grazie a te, Manuela, a presto, a risentirci, a rivederci con, appunto, ancora l'appuntamento del 24 di gennaio a Signa al tiro a volo per poi partire in presidio. Bene, grazie ancora a te Andrea e a tutti gli ascoltatori. Ciao. A voi, a presto.